non dobbiamo mai faticare per le nostre scelte. Fatica mai. Fatica mai. Fatica mai. In maniera facile, nessuno ci può impedire di fare ciò che vogliamo, di fare ciò che vogliamo. E tutto l'universo si muove in combattimento. Richiede una grande quantità di energia che noi non abbiamo e noi non avremo. E noi non abbiamo e noi non, abbiamo, e noi non avremo. E noi non avremo. Sbagliamo gli accordi, ma ci penserà un altro a mettere a posto anche questa canzone. Sbagliamo gli accordi, ma ci penserà un altro. Noi non siamo fatti per questo senso delle cose. Noi non siamo fatti per questo senso delle cose. Faccio le canzoni tutti uguali, come se fossero tutti degli stampini, e che poi parlo troppo poco scandito, come se la comunicazione fosse qualcosa di irreale, di irreale, di irreale. Il problema è che non vedo il motivo per essere poco ubriaco, e per questo non riesco a fare la tua canzone ideale, la tua canzone ideale, la tua canzone ideale. Irreale. E cosa volete voi? Così diceva Giovanni Lindo. E cosa volete voi? Cosa volete voi? Nada. Cosa volete voi? Faccio le canzoni tutti uguali, come se fossero tutti degli stampini, e che poi parlo troppo poco scandito, come se la comunicazione fosse qualcosa di irreale, di irreale, di irreale. Il problema è che non vedo il motivo per essere poco ubriaco, e per questo non riesco a fare la tua canzone ideale, la tua canzone ideale, la tua canzone ideale. Irreale. E cosa volete voi? Così diceva Giovanni Lindo. E cosa volete voi? Cosa volete voi? Na, na. Cosa volete voi? Fare un album in tre mesi è uguale come fare in tre giorni, tanto non lo ascolterà nessuno, non lo ascolterà nessuno, non lo ascolterà nessuno. Fare un album in tre anni è uguale come farlo in tre giorni. Ascolterà nessuno. E noi fatica mai. No, fatica mai. Evviva i Pooh, evviva i Pooh, evviva i Pooh, evviva i Pooh, evviva i Pooh, vaffanculo.